2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 21 novembre 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale, se volete scriverci per qualsiasi ragione, è 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Questa settimana Google, andiamo subito alle notizie della settimana, ha svelato qualche dettaglio sul sistema operativo Chrome, quello che gli esperti chiamano Chrome OS, quindi Operating System, quello che fa funzionare i computer. Chrome è stato annunciato a luglio, esiste anche un programma di navigazione, un web browser chiamato Chrome, che è già disponibile in rete e lo si può utilizzare, e le due cose di fatto non coincidono, ma comunque sono parenti, possiamo dire così. Ne hanno parlato a Mountain View, quindi dove ha sede Google, giovedì sera. Alcuni ingegneri dell'azienda americana, del motore di ricerca, in modo particolare Sundar Pichai, che è responsabile dello sviluppo prodotti a Mountain View. Our target time frame is end of next year. We want to be there ahead of the holiday season with devices in the market. Pichai ha detto che i primi prodotti saranno disponibili alla fine del prossimo anno. Si tratta di Netbook, i piccoli computer portatili da 300-400 euro che stanno facendo grande successo sul mercato, pensati per la navigazione in internet. Questa è una scelta motivata dal fatto che il software che sta sviluppando Google è pensato prevalentemente, se non esclusivamente, per navigare in rete. This device is primarily intended for use with connectivity. Wi-Fi is the use case we have in mind. And we are designing it because it's primarily for you to spend time online. Un portatile solo per la navigazione, dice Sundar Pichai, che per alcuni utenti, dice Google, occupa fino al 90% del tempo speso davanti al PC. Quindi molti utenti dicono a Mountain View quasi tutto il tempo che occupano davanti al PC lo passano navigando in internet. Il sistema operativo sarà di fatto il browser Chrome, basato su Linux, modificato in modo da funzionare da solo sul PC. Quindi un computer portatile con il solo programma di navigazione. All data in Chrome OS is in the cloud. Tutti i dati, dice Pichai, saranno in the cloud, quindi nella nuvola della rete, cioè sul computer non sarà necessario installare alcuna applicazione. Questo dovrebbe essere anche un vantaggio in termini di sicurezza, perché meno cose sono installate sul PC, meno attaccabile è. Sarà quindi una sorta di terminale, potremmo dire così, molto semplice e, dicono gli ingegneri di Google, molto veloce ad accendersi. E per questo non ci sarà un hard disk, ma solo memoria flash. Vedremo chi saranno poi i produttori che faranno uscire sul mercato prodotti di questo tipo. Abbiamo detto, manca ancora più di un anno, quindi ci sarà tempo ancora per approfondire. A proposito di connettività, una cosa interessante, Google ha detto che ci sarà una connessione Wi-Fi sui netbook che avranno a bordo Chrome, quindi questo sistema operativo. Non pare ci sarà alcun supporto per il WiMAX, perché pare che Google stia preferendo appoggiare i piani di sviluppo della tecnologia LTE, quindi Long Term Evolution, o il cosiddetto 4G, cioè l'evoluzione dell'UMTS, la quarta generazione di telefonia mobile che dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di un paio di anni, forse 2-3 anni. Alcuni hanno ipotizzato che Chrome possa fare concorrenza a Windows. Sicuramente farà concorrenza nel segmento dei netbook e non su tutta la famiglia dei PC. È pur vero che questo tipo di dispositivi sta avendo molto successo ed è uno dei pochi settori nel mondo dei computer che ancora cresce a ritmi molto elevati. Quindi, ricapitolando, l'idea che ha in testa Google è quella di un sistema operativo che di fatto è un programma di navigazione per internet, e quindi il computer sarà molto semplice, molto leggero, dovrebbe costare anche molto poco, perché questo è un sistema sviluppato su Linux. Tra l'altro, da due giorni è disponibile per gli sviluppatori il codice sorgente, quindi sarà distribuito gratuitamente. Quindi computer molto poco costosi, che però necessitano della rete internet, e di questo parliamo anche tra poco. Volevo dire una cosa a proposito di Windows: la versione numero 7 sta vendendo molto bene, secondo Steve Ballmer, l'amministratore delegato della Microsoft. A circa un mese dall'uscita in tutto il mondo, il 22 di ottobre, ricorderete, Windows 7 ha venduto finora il doppio dei precedenti sistemi operativi. Microsoft non ha però fornito numeri. per Microsoft c'è da registrare la crescita della quota di mercato del motore di ricerca Bing, lanciato a giugno, che secondo ComScore in ottobre è arrivato sul mercato americano, quindi mercato americano un po' diverso dall'Europa, al 10%. Google domina il settore con più del 65% delle ricerche, seguito da Yahoo con il 18%. La quota di mercato in Europa di Google è molto più elevata. Dicevamo, il mondo che vede Google, e non solo Google, per i suoi computer e per i suoi telefonini, o per meglio dire per i computer che avranno il sistema operativo pensato da Google o per i telefonini che hanno a bordo Android, è un mondo dove internet è sempre presente, ma se i nostri dati sono in rete, non sul nostro computer, la connessione ad internet è vitale come lo è l'energia elettrica per fare funzionare il computer. La realtà purtroppo è ancora piena di buchi, la situazione non è certo come se la immaginano a Mountain View in California, vuoi per mancanza di infrastruttura, vuoi per i costi di accesso ancora in alcuni casi piuttosto elevati, vuoi per la qualità dell'accesso, cioè è inutile avere un netbook che si accende in pochi secondi, veloce e semplice da usare, se per accedere poi alla posta elettronica ad esempio impieghiamo alcuni minuti perché la connessione è lenta e difficoltosa. Oppure se una legge mi impedisce di utilizzare in tranquillità il collegamento Wi-Fi in un albergo, in un aeroporto o in una stazione. Sapete che in Italia esiste una legge antiterrorismo che obbliga chi mette a disposizione una rete in luogo pubblico a tenere nota di chi sta navigando. Bene, il ministro del turismo Michela Vittoria Brambilla ha detto che è necessario liberalizzare l'accesso ad internet per il turista che soggiorna nel nostro paese, non solo nelle strutture ricettive ma anche al di fuori di esse, in quanto il viaggiatore del terzo millennio non deve essere più penalizzato nella navigazione online. Questa è una cosa che gli addetti ai lavori dicono ormai da molti, più che molti mesi, da molti anni, però che lo dica un ministro che sicuramente si deve occupare di turismo e quindi ha in testa il turista, ma poi se questa liberalizzazione, speriamo, ci sarà, sarà a vantaggio insomma di tutta la popolazione. Quindi la possibilità di arrivare in una piazza dove c'è il wifi e con tranquillità poter accendere magari il proprio smartphone o il proprio computer portatile e magari comprare il biglietto del treno prima di andare in stazione. Questo è un tema che si lega anche alla diffusione di internet attraverso un'infrastruttura di nuova generazione in fibra ottica. Dopo aver reso libero l'utilizzo della rete, dobbiamo anche costruire nuove reti. Abbiamo parlato del congelamento dei fondi che servirebbero a tappare i buchi attuali della rete italiana e della mancanza di un progetto per una rete futura. Continueremo sicuramente a seguire questo dibattito molto interessante, magari parlando anche di alcune iniziative che si stanno sviluppando a livello regionale, ma oggi vorrei raccogliere alcuni segnali. Il primo arriva dal Regno Unito. Sentite chi parla. My government will introduce a bill to ensure the communications infrastructure is fit for the digital age. Quella che sentite è la voce della regina d'Inghilterra, che questa settimana ha tenuto il suo discorso al Parlamento leggendo quello che il governo laburista ha in programma di fare nei prossimi mesi. Beh, al di là delle possibilità poi di realizzazione, visto che a maggio ci saranno le elezioni, la regina ha detto e quindi condivide il progetto di costruire una rete adeguata all'era digitale. Quindi questo è il dibattito che arriva fino alla regina, che di solito è vista come una donna forse di altri tempi, e invece parla di un network adeguato all'era digitale. L'altro segnale che raccogliamo questa settimana arriva dalla Spagna. Dopo la Svizzera e la Finlandia, anche in Spagna l'accesso a internet sarà un diritto per tutti i cittadini. Lo ha annunciato il ministro iberico dell'industria, Miguel Sebastián, che ha parlato del 1 gennaio del 2011 come data di entrata in vigore del nuovo sistema. A partire da quel momento una connessione di banda larga di almeno un mega sarà un diritto per tutti gli spagnoli, che dovrà essere assicurato su tutto il territorio nazionale, così come lo sono già le linee fisse e le guide telefoniche. Ovviamente questa iniziativa ha raccolto il favore degli internauti, che l'hanno applaudita in tutti i blog, ma ha causato una secca reazione degli operatori. Secondo l'associazione del settore non ha senso. In un momento di forte crisi non si possono aumentare i costi degli investitori con misure obbligatorie. Gabriele Cagliani, GR24, Il Sole 24 Ore, Madrid.

Ecco come funziona questo servizio nelle parole di Teppo Pavola, che è responsabile dei servizi finanziari di Nokia. Well, Nokia Money is a way to send money from one mobile device to another. Nokia Money è un modo per inviare soldi da un cellulare ad un altro. Ci sono molti tipi di utilizzo: pagare una bolletta, inviare soldi ai propri familiari o qualsiasi altro motivo ci sia per pagare qualcuno. Prima di tutto è necessario procurarsi un account. Per avere un account è necessario che l'identità venga verificata e questo è dovuto alla regolamentazione bancaria. Dopodiché uno carica i soldi sul proprio conto. Ci sono vari modi per ricaricare il conto. Uno di questi è recarsi in un negozio Nokia o in uno che vende telefoni Nokia. Loro prenderanno i soldi e li caricheranno sul conto. Quindi si tratta di un servizio prepagato. Nokia lancerà questo servizio nei paesi in via di sviluppo, partendo da questi paesi dove la società finlandese ha quote di mercato del 70-80%, probabilmente inizierà dall'India a partire dal 2010. Sicuramente l'entrata sul mercato dei pagamenti via cellulare di Nokia ci suggerisce che presto questi servizi diventeranno popolari. Pensate anche alla forza di mercato che ha questa società, perché se su tutti i telefoni, su comunque una buona parte di telefoni, verrà installata un'applicazione Nokia Money, sicuramente questa è una leva molto forte per entrare sul mercato. Vedremo gli sviluppi, anche perché ci sono novità recenti. È entrata in vigore il 1 novembre una normativa europea che dovrebbe dare uno slancio ulteriore a questo mercato, almeno nell'Unione Europea. Seguite 2024 nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure siamo anche online sul nostro sito internet www.radio24.it. Nelle pagine di 2024 scegliete programmi e trovate molto rapidamente il nostro programma 2024. Oppure c'è un altro modo molto più semplice, molto più veloce, che è il servizio podcast. Vi consiglio di abbonarvi se ancora non l'avete fatto, se avete la possibilità di accedere ad internet, perché questo è purtroppo un problema per alcuni nostri ascoltatori che ci scrivono a volte da connessioni di fortuna e ci dicono, lamentandosi giustamente, che non hanno la possibilità di avere un buon collegamento ad internet. Tenete però conto di alcune alternative di cui parleremo tra poco. Prima vorrei darvi un dato che riguarda l'attivazione di linee fisse in banda larga di internet in un anno in tutta Europa. Ce ne sono state 11 milioni, queste sono notizie che arrivano dalla Commissione europea. I dati sono aggiornati a luglio di quest'anno. Il 24% dei cittadini europei disponeva di un contratto di accesso alla banda larga, rispetto al 21% dello stesso mese del 2008. L'Italia rimane sotto la media europea, quindi non ci sono novità per il nostro paese, la novità sono i dati aggiornati. Siamo fermi al 19,8 contro una media appunto europea del 24% di penetrazione della banda larga. In crescita, questo è un dato insomma che conferma una tendenza di cui abbiamo parlato più volte, cioè la banda larga mobile, che ha registrato un incremento anno su anno del 54%. Il tasso di penetrazione è del 4,2%, quindi siamo ancora a livelli bassi rispetto alla DSL, ma comunque in forte crescita. Per chi non è raggiunto dalla banda larga tradizionale, quindi dal cavo in ADSL, per i più fortunati parliamo della fibra ottica, ma parliamo di una percentuale minima del paese, dicevo, ci sono alternative. Abbiamo parlato in passato moltissimo del WiMAX e delle promesse del WiMAX. Siamo più o meno ad un anno dall'arrivo dei primi servizi commerciali di questa tecnologia. Che cosa è successo? Beh, che alcuni operatori sono nati, hanno cominciato a espandere i propri servizi, hanno alcune migliaia di clienti, ma forse, alcuni dicono, le promesse del WiMAX sono state mantenute non forse al 100%. Ne vogliamo parlare con un grande esperto della rete italiana, Stefano Quintarelli, che torna con noi a 2024. Stefano, bentornato. Grazie e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Molte erano le promesse del WiMAX, di questa tecnologia che prometteva di portare la rete internet dove la DSL non c'era o comunque non c'è ancora oggi. Esistono alcuni servizi commerciali in Italia, ma potremmo dire molte di queste promesse non sono state mantenute. Dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo o forse non saranno mai mantenute? Ma diciamo, io sul WiMAX sono sempre stato abbastanza critico, no? Basta andare a vedere sul mio blog fin dalle prime discussioni. WiMAX era stato lanciato un po' e presentato come una panacea, una cosa che consentiva di portare una banda infinita a distanze molto più che chilometriche. Ecco, la verità è che non è una tecnologia panacea. Allora, anche quando sono state fatte le gare per l'assegnazione delle frequenze in uso esclusivo da parte del Ministero, e molte aziende hanno investito una grande quantità di quattrini, e anche su questo io avevo espresso delle perplessità, perché non credo che il mercato sia abbastanza grande, il mercato di riferimento sia abbastanza grande per riuscire a rientrare degli investimenti necessari a fare la rete e a pagare queste licenze. Credo quindi che grandi sviluppi in più rispetto a quello che è l'attuale stato, quindi non so, tra gli N concorrenti che ci sono stati per le licenze, ce ne saranno due o tre che stanno costruendo effettivamente la rete, ecco, tanto più di così non credo che vedremo. Per quanto riguarda il WiMAX, è un problema tecnologico, è un problema regolamentare, o poi apriamo anche un altro capitolo di lobbying, cioè degli operatori di telefonia mobile che vedono il WiMAX come un possibile concorrente, quindi fanno pressione perché tecnologia... No, questo direi che i concorrenti, cioè non ci sono atti fatti da terzi per cercare di frenare l'adozione della tecnologia. È proprio che la tecnologia è adatta ad utilizzi di un certo tipo. Ad esempio, le frequenze utilizzate, assegnate con questa gara per il WiMAX, sono frequenze che prevedono onde, che implicano onde molto corte. Queste onde corte quindi non attraversano i muri, per cui se io voglio effettivamente avere una ricezione adeguata all'interno di zone, di case che stanno più che nelle periferie, in campagna, nelle zone tipicamente digital divise, queste case di solito sono case con pareti in muratura molto grosse, no? Quindi male il segnale entra male, quindi avrò bisogno di mettere un'antennina vicino alla finestra oppure sul tetto, ecco. Quindi già questo taglia e limita parecchio la possibile adozione. Se vogliamo fare un parallelo, perché poi esistono anche altre tecnologie radio invece per fare la parte di accesso alla rete, che stanno avendo una giovinezza, diciamo, cioè giovinezza. No, sono molto floride come adozione di tecnologie, molto di più del WiMAX. Secondo dati dell'osservatorio banda larga fatti dalla società Between, se uno guarda qual è lo stato a fine 2008, ci sono 4.300 comuni coperti con una tecnologia che non è quella del WiMAX, no, è che è la tecnologia Hyper-LAN, che è una tecnologia alla quale io sono abbastanza affezionato. Se posso spiegare brevemente la differenza delle due con un'analogia. Sì, sì. Il WiMAX è un po' come una lampadina che irraggia in tutte le direzioni, quindi immaginiamo che la lampadina trasmetta acceso o spento per dire 1-0, no? Chiaramente se ci sono due lampadine nella stessa stanza, le due interferiscono una con l'altra. Per contro, chiunque sta in qualunque punto della stanza vede la lampadina. L'Hyper-LAN è come se fosse una penna laser di quelle che si usano per indicare nelle presentazioni. Per cui se non... Quelle col pallino rosso. Sì, esatto. Per cui se io non sono esattamente allineato con te, non ti punto addosso, non vedo la luce, cioè non mi interferisce. Ci possono essere all'interno di una stanza decine di persone che si puntano questo laser e accendono o spengono. E lo accendono o spengono per trasmettere 1-0. La differenza tra i due quindi cosa implica? Che nel primo caso quella frequenza relativa alla luce mi devono essere assegnate in uso esclusivo, non ci può essere un altro con un'altra lampadina, se no interferiamo. Nel secondo caso posso utilizzare delle frequenze ad uso condiviso, perché possiamo essere in tanti a trasmettere. Nel primo caso illumino tutta la stanza, è omnidirezionale. Nel secondo caso è direzionale, quindi devo avere delle antenne puntate una verso l'altra. Però abbiamo capito che anche il WiMAX, con le licenze attuali, con le frequenze che ci sono attuali, ha bisogno in una buona parte di casi di installare un'antenna. Allora se devo installare l'antenna e il costo d'impianto comunque ce l'ho, beh, tanto vale che lo metta in Hyper-LAN, dove l'operatore non deve acquistare le licenze in uso esclusivo e quindi non deve fare le gare e quindi può usare apparati che costano meno e quindi non ha bisogno di tanta burocrazia che c'è in più, per cui alla fine il servizio diventa più competitivo. Questa è la ragione per cui in tutta Italia stanno nascendo tantissimi piccoli operatori WiMAX che coprono aree che erano digital, che erano tra virgolette e vengono ritenute ancora digital divise, proprio perché essendo poi piccoli operatori molto locali sfuggono, anche perché non c'è, a un censimento globale, quindi capita che una persona ritenga di essere in una zona digital divisa perché non c'è la DSL, perché quello è facile da appurare, in realtà ci sono alternative. Questa è l'ultima parte di 2024, vi ricordo il servizio podcast, potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione, ci sono software che sono pensati anche per gestire il podcast, ricordiamo spesso iTunes che è sicuramente uno dei più diffusi, ma ce ne sono moltissimi altri, molti ascoltatori ce li segnalano, ultimamente alcuni ci hanno segnalato iTunes che è un programma anche per sistemi Linux, non solo, anche per Windows e Mac, ma sicuramente interessante anche per questa piattaforma. Ce ne sono altri, l'importante insomma che il software, il file MP3 venga scaricato, non tanto con lo strumento, con quale strumento venga fatto questo download. Tutte le informazioni sono online oppure potete scriverci una email. È con noi Stefano Quintarelli, stiamo parlando delle alternative al cavo per collegarsi alla rete internet. Dicevamo poco fa che spesso queste alternative esistono sul territorio ma non sono mappate, quindi non sono censite, e poco fa dicevamo che stanno nascendo molti piccoli operatori che offrono collegamenti in tecnologia Hyperlan, e il WiMAX sicuramente non diciamo che si trova in difficoltà, ma molte delle promesse che erano state annunciate da questa tecnologia non sono state mantenute. Stefano, non c'è anche, come alcuni dicono, e io penso che ci sia una buona parte di verità, che a livello internazionale, soprattutto a livello di standardizzazione, ci sia una forte pressione dell'industria della telefonia mobile per far sì che la vera alternativa ad internet via cavo, via DSL o via fibra ottica, sia la telefonia mobile, non tanto tecnologie come WiMAX o anche Hyperlan. Tu che cosa ne pensi? Ma allora, è un dato di fatto che anche l'interesse da parte dei costruttori di hardware per WiMAX sia scemato molto negli ultimi 2-3 anni. È chiaro che quando hai una tecnologia che ha dei problemi e dall'altra parte hai degli operatori che hanno un sacco di quattrini e che devono fare degli ammodernamenti e investono su un'altra tecnologia, e beh, è chiaro che la prima ne risente. Quindi è giusto dire che lo sviluppo di sistemi HSDPA, ma anche Hyperlan, in qualche modo ha portato, se io faccio produttore di apparati tendo ad andare dove ho più mercato, quindi è giusto dire che uno ha condizionato l'altro, che sia stato fatto in modo, diciamo, mirato per ammazzare una tecnologia rispetto all'altra, non credo. Tanto più che alla fine io credo quello che succederà è che andremo a utilizzare gli stessi protocolli del WiMAX o dell'Hyperlan su tutte le frequenze, cioè l'associazione tipo di tecnologia legata, associata a una determinata frequenza sta venendo meno. Proprio oggi in Gran Bretagna, per esempio, sul GSM hanno appena deciso di concedere l'uso delle frequenze anche con tecnologie diverse dal GSM su quelle frequenze che prima erano frequenze GSM, quindi questa è una cosa che sta avvenendo. Senti, all'inizio della nostra trasmissione abbiamo ricordato che pochi giorni fa anche la Spagna è entrata in quella lista ancora molto breve, molto corta di paesi che hanno deciso di rendere l'accesso ad internet un servizio universale. Ricordiamo che il servizio universale è quel servizio come quello telefonico, ad esempio, come l'energia elettrica, per cui l'operatore principale, almeno un operatore, è obbligato a portare il collegamento anche in zone cosiddette fallimento di mercato, comunque lontane dai grandi centri. Così oggi in Italia non è per internet. Recentemente si è parlato della Finlandia, qualche anno fa la Svizzera ha fatto qualche cosa del genere e oggi anche la Spagna. Se in Italia facessimo una legge del genere, cioè se venisse presa la decisione di rendere internet servizio universale, tecnicamente, perché poi bisogna vedere se è possibile farlo, a tuo modo di vedere la cosa è possibile o no? Quindi un'eventuale legge sarebbe poi inapplicabile. Ma allora, intanto ricordiamo che in Spagna il collegamento banda larga 1 megabit entrerà a far parte del servizio universale dal 1 gennaio 2011. Sì. Ce la faranno? Boh, servizio universale vuol dire che chiunque, in qualunque posto, ha diritto ad avere quel servizio e glielo devono portare con delle tariffe che siano confrontabili a quello di qualunque altro posto. È chiaro che se andare in un posto molto remoto presenta un costo molto alto, chi fa il servizio universale viene sovvenzionato dallo Stato e dagli altri operatori proprio per andare ad incamerare questi extra costi necessari per andare a collegare i posti più disagiati. Io comunque penso che esisteranno sempre dei luoghi dove portare un collegamento a 1 megabit sarà estremamente difficile, a meno di non arrivarci via satellite. Francamente un collegamento via satellite sì, si può fare, però le prestazioni sono quello che sono, la latenza è molto alta, il segnale deve andare in orbita, tornare a terra, andare al server, essere elaborato, tornare in orbita, arrivare di nuovo a casa mia, quindi... Cioè, la velocità della luce è la velocità della luce, ma sono anche distanze notevoli. Per cui io non credo che il servizio universale, che si possa pensare a un obbligo di servizio universale per la banda larga, avendo come effetto di avere una cosa simile alla DSL dovunque. Ci saranno grandissime differenze di prestazioni. Credo che si potrebbe fare sicuramente anche in Italia, anche in quel... Fatto questa premessa, quindi che esisteranno grandi differenze tra la qualità del tipo di collegamento a banda larga tra l'uno e l'altro, perché dire 1 megabit è 1 megabit, ma se parliamo di latenza, per esempio, appunto, cambia molto, sì. Si potrebbe fare anche in Italia, anche da prima, insomma, non siamo così lontani. Bene, Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi, seguiamo sempre e sicuramente riparleremo anche del grande tema, ma questo è un tema molto più ampio che richiede molto più tempo, della cosiddetta rete di prossima generazione, anche se qualche cosa sta accadendo qua e là a macchia di leopardo in qualche regione, forse potremmo dire che in qualche regione la rete di prossima generazione la stanno già facendo. Sì, sì, assolutamente, sì, ci sono delle novità. Grazie Stefano, a presto. Grazie, grazie a tutti gli ascoltatori. Beh, questa settimana mi telefoneranno le società che gestiscono anche collegamenti via internet attraverso il satellite. Ricordiamo che sia Astra che Eutelsat hanno un'offerta per il consumatore finale per collegamenti ad internet. Queste offerte funzionano anche effettivamente negli ultimi anni a prezzi molto concorrenziali, quindi se ci si trova in una zona molto disagiata, questi servizi possono essere effettivamente utilizzati. Ricordiamo che la tecnologia Hyperlan per il cliente finale offre prestazioni in molti casi paragonabili alle ADSL, poi dipende, ci sono anche delle ADSL soprattutto nelle città e in alcuni centri urbani molto performanti, quindi è chiaro che il cavo funziona molto meglio. Tuttavia questa, come dicevamo, è una tecnologia che si sta affermando, ci sono molti piccoli operatori in tutta Italia. Ricordiamo che il servizio più evoluto nel nord Italia è Eolo, che copre l'area più grande, ma sicuramente molti operatori locali stanno tenendo molto successo e, come ho detto in altre puntate, offrono anche un servizio sociale, un servizio pubblico, perché portano internet laddove non esistono alternative. Per il consumatore finale l'unica cosa da fare è installare una piccola antenna fuori dalla casa, dopodiché la connessione ad internet è garantita. Abbiamo parlato in passato di altre società, in Veneto ad esempio ce ne sono alcune in Sud Italia, anzi vi invito a segnalarci le esperienze visto che non esiste una vera e propria mappatura di questi servizi. Questa settimana abbiamo parlato con Maurizio Becchis, che è presidente di BB Bell, una società che offre questi servizi in Piemonte. Quanto costano questi servizi? Perché anche questo è un aspetto molto importante. Conti fatti per il cliente? C'è una convenienza tanto maggiore quanto è maggiore il fabbisogno di banda. Sul mega garantito c'è una soglia oltre la quale si spende meno della metà rispetto all'equivalente quantitativo di banda garantita da Telecom Italia o comunque via cavo telefonico. Scendendo, ovviamente, passando a mezzo mega garantito, 256K, eccetera, si raggiunge un livello al quale la convenienza puramente economica non c'è più, però comunque la qualità rimane quella di una fornitura simmetrica con IP pubblico garantito, con firewall già incluso nel servizio, e a questi livelli qua quindi abbiamo i livelli di ingresso entry level, abbiamo un taglio da 25 euro al mese più IVA, che costituisce in pratica la proposta che facciamo ai clienti residenziali, ovviamente i più esigenti. Nei 30 euro al mese avete compreso anche il telefono? Nei 30 euro al mese c'è la possibilità, con questo canale che è simmetrico, di usare Skype liberamente. Una linea telefonica implica 5 euro aggiuntivi al mese, quindi siamo a 30 euro più IVA al mese, inclusa quindi una linea telefonica. Senti, il cliente finale che tipo di infrastruttura deve avere? Il cliente finale deve attrezzarsi, ma a questo ovviamente tecnicamente ci pensiamo noi, sul proprio tetto, con un apparato che possiamo assimilare alla parabola con la quale prende la TV satellitare. Questo apparato è un involucro da esterno con dentro un'antenna, una radio e un router, e che esce direttamente con un cavo dati, e quindi non ci sono cablaggi d'antenna oppure alimentazioni elettriche da portare fin sotto il tetto. E con questo apparato molto leggero, che essenzialmente si piazza e si dimentica, alla fine dentro quella sede lì lui ha un servizio che, a detta dei nostri clienti, comunque è paragonabile, se non migliore, come performance all'equivalente local loop via terra. Quindi dice l'equivalente ADSL. All'equivalente ADSL o HDSL addirittura. Senta Bekis, dove sono attivi i vostri servizi? Noi operiamo principalmente in Piemonte, e abbiamo però i nostri migliori clienti nell'area di Torino, di Cuneo, capoluoghi di provincia, nelle città anche più importanti, specialmente nelle aree industriali che magari sono cresciute più in fretta di quanto abbia fatto l'infrastruttura terrestre per le telecomunicazioni. Quindi diciamo non c'è una prevalenza nelle aree di colline e di montagna? Non c'è una prevalenza nelle aree di colline e di montagna, in particolare sulle valli del Piemonte, che insomma si sanno che circondano il Piemonte. Noi arrivati all'ingresso delle valli essenzialmente abbiamo lasciato che l'iniziativa di addentrarsi si facesse in collaborazione con la pubblica amministrazione locale, se c'era interesse e voglia di farlo, altrimenti dal punto di vista di servizio sul mercato in competizione con la DSL o a complemento della DSL dove non c'è, noi ci siamo concentrati sulle zone di pianura. Quindi diciamo che la vostra rete è una rete che si estende con prudenza, diciamo così. Le faccio una domanda sul rapporto che c'è appunto con la pubblica amministrazione, perché in molte zone il ruolo della pubblica amministrazione, in quelle zone che vengono definite a fallimento di mercato, quindi dove c'è poca popolazione, quindi è difficile che un privato costruisca una propria rete. Che tipo di rapporto c'è, e quando esiste questo rapporto, che cosa fa la pubblica amministrazione per favorire questo tipo di intervento, questo tipo di impianto? Allora, il rapporto che c'è è direi buono, ma è stato conquistato sul campo, andando a dimostrare le cose che si fanno magari a qualche chilometro di distanza. Dal punto di vista di costi, di investimenti, interventi, si può calcolare tranquillamente che un intervento per aiutare un operatore a posare fibra ottica, a prescindere dall'area, dalla lunghezza della zona, costa un ordine di grandezza in più di un intervento per aiutare un operatore wireless con un ponte radio a portare un ordine di grandezza in meno di banda. Però il problema che hanno questi territori è portare i 100 mega, non è portare il gigabit al secondo. Ecco quindi che con un investimento molto più contenuto si ottiene lo stesso scopo. Ecco, ma la pubblica amministrazione che cosa fa? Paga tutto l'intervento, mette a disposizione, che ne so, la torre per mettere le antenne? Normalmente come si comporta? Allora, ci sono delle zone dove è sufficiente, per far tornare i conti, diciamo così, mettere a disposizione il punto di distribuzione, altre zone in cui così accelera il ritorno dell'investimento, un intervento di tipo comunicazione, cioè si fa garante assieme a noi che sta arrivando un servizio insomma, serio, degno di nota. In altri casi in cui le case sono davvero sparse, i residenti sono davvero pochi, bisogna concordare nel rispetto ovviamente della competizione di mercato, degli interventi, degli incentivi che eventualmente possono anche andare al cliente finale e non necessariamente devono finire o transitare per le tasche dell'operatore che interviene. Quindi ci sono casi in cui la pubblica amministrazione sovvenziona il collegamento magari pagandolo ai cittadini? Ci sono, questo è un tipo di soluzione che in alcuni posti è stata studiata e realizzata anche con successo. Senta, le faccio un'altra domanda soprattutto relativa alle zone più lontane dalla pianura, quelle insomma dove le case sono poche. Laddove ci fosse una domanda di una comunità, quanti sono i clienti minimi che voi richiedete per fare un tipo di intervento? Cioè, se 10 clienti vi chiamano e vogliono avere il vostro servizio, voi glielo portate o avete bisogno di 50-100 abbonamenti? No, se parliamo di abbonamenti, diciamo così, entry level, la quarantina è il numero giusto nell'ambito del punto di distribuzione. Quindi noi con una quarantina di contratti del tipo di quelli che descrivevamo prima, per capirci, da 30 euro IVA inclusa, abbiamo i conti che rientrano in un tempo ragionevole, quindi possiamo procedere. Bene, Bechis, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. E così concludiamo anche questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie anche a chi ci scrive con suggerimenti, a volte anche qualche critica giustificata. Quando non siamo d'accordo rispondiamo che non siamo d'accordo, quando invece le critiche sono buone ne prendiamo nota e cerchiamo di correggere gli errori. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Vi ricordo che 2024 va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30. Questa è la versione podcast. Anche questa settimana vi abbiamo offerto qualche minuto in più delle nostre interviste, quando le interviste sono interessanti ma non riusciamo a proporle per intero nella nostra unica ora settimanale che abbiamo in FM, nella radio tradizionale. Beh, cerchiamo di offrirvela per intero, quasi per intero, almeno nel podcast. È tutto, grazie ancora per la vostra attenzione, appuntamento alla prossima settimana. You are disconnected.